L'usteria des le calma e nissun dispio na got. Vardentu c'è il capitano e il gigante con sul capot. Il capitan le men avun che parla in scetan per cicciarà. Anzi, el parla quasi mai se chem de di la verità. Nissun el sa cu se che el pensa quan le gio in del sostanzen con la luce della candela, cui so libri e il fiasch del ven. A parlà nella sua spada e ormai la di anca trop, anca i gen della sua ciurma e quei vedon le anca mozzop. L'om scondu su tal mantel varda l'oltro in sulla soglia e ga la faccia che a vedela pare il trunc della magnolia. Chi te sei tu fureste per finì in questa lucanda e com'è una passeggiata picà i gen della mia banda? A sered mea che per caso, chi ta di che serum che? Visto che te sei chi son, fan savè chi te sei te. Cuntami a su scemat e ciapu mena per il cu. Patauncia te le desfa, però me su mena lu. Nominave tu una mappa, e l'è una bala bella e buona. Ghe mai sta ni su un tesoro, né a culon né a gravedona. L'è una vusca o metù in gir, perché poda incuriosis un certo baldo crappa piatta, che de un nan le menemis. L'era veng della mia ciurma, ma una volta il matradì, el se fa sulla sua banda e gli disse a tuc che son finì. E tu parlanca trop, el fumè a tuc idee. Però adesso son che speci che te parlet anca te. La gentaia la tas tuta, gula mea gnanna musca, e per tutta la lucanda, facca, che atmosfera fusca. I pirati specie in tuc che l'umbria grande e grossa, fa gaudisa per quei cos, tu calè ades, fa la mossa. Bel menom per il momento, alle menche importante. Ho creduto di far balose, sta un bel ignorante. Ma so proprio un bel nagot de pirati, de tesori, ma son che duma perdit, che ghe in baldi oltre storie. Stori gross, delicà, più se grande te de me. In sce intricà nel so complesso, che capisco un gnal perché. E fa per nel disperà, è una vita de ordenare. E ti dici che ne a me son ti in gir con charrusari. La tua storia la santuc, santuc la tua disgrazia. La tua tristezza la cupa i gent, e la tua spada le mai sazia. Ma ogni crapa, o gamba, o brash, che ogni dete tagliet via, te ridarà in drena got. E certo, ne ha la tua Maria. Sta parola, la gampes, che fa tremà la situazione. E il pirata il tira in gigul, e il ciappa in mano il suo spadon, la fa girà come una ranza, e il solta in pesura al bancon. Intorno a lui, è inutile dir, oramai che pioni son. Dove la sa sta quel nom, la sa chiunque me cugnus. Mi interessava il tuo discorso, però adesso son troppo nervoso. Dopo la tua giaculatoria, fan vedere se te ghetti bal. Adesso basta muove la lingua, adesso se fa bal al metal. Capita Slav, el mola un culp e taglia Jones Gabel de Metz. L'oltro el tira quattro schiaf che ie mea certo carez. E il capitano el mola mena, el preva motrio quattro mos. L'oltro svolza in aria al tavolo e poi che la tira dos. El por pirata el vetistel, ma le furiose el leva se. I scagnozzi vorren fal tifo ma ni sogno il fia da pie. Capita Slav el ciapa fia, branca la spada cun doman. Anca l'oltro la sguainada, ma la sua fa feu che fiam. Lui spegio del suo e la taverna la se sbianca, ma l'effetto più se gross la fa il mantel che se spalanca. Un'armatura fa da in sé, ma in nessun l'era veduta, ma in di story e in di legend mila volte l'era sentuta. L'onde nava, quel che c'ha nel trop colt, che il ghemanda tu c'ha il diavol con tripirli e quattro solt. Toni in mezzo a quella stanza e il parlui l'apocalisse. La sua faccia, la par quella che fa l'uf quant'è il colpis. Slaf el par disorientà, ma cambia menga la sua china. I search, nien qui del cobra, mea del fiumet che frigna. La sua lama la partis, e che l'oltru ghe respunt, e nisseng la mai vedi una roba in scia sto mut. Ogni culp el par un trom, e ogni scontro una saeta. Che scintil fede chi spad che se meve la maneta. E il pirata la prua tucci mos che il cugnuseva. Ma quell'essere incredibile, ogni roba el prevedeva. L'impossibile fa la fe con tu nom che om le mea, dice il tuo spettador, che oramai ganna diarea. Desmetti la tusanet, busa Slav in cazza negro, ni a pisasa dos de fe se ghidente un cœur de vedro. Me combatti fino in fond, caro amis vestì de tola, Una volta tarle belle mi avecchia una papamola. Però adesso il Tony se ferma e il varda fe della finestra, che un'umbria de drede slav continuano una balestra. Sbasse slav, busa il Tony, e distinto quel se sbassa, e la freccia per fortuna la finis contro una casa. Slav el resta instupidì, mentre il Tony furibund e il curlà verso il sicario e la sfilza fin in fond. Slav dis che la cognus l'era un nom del crapapiata, però adesso il capis più qual è la bras e la pugnata. Basta gente, aghe no piei bal, ed è che è un pezzetto trosseu, ma fin capì tutta sta storia, perché adesso è un po' di più. Dim, sul da fio del fulmin, a sed venu per liquidam, un quai angel fa de crapa ta mandà che per salvam. Sun collega del demoni, ma fu più ni son duel, cunt un nom che tu den bot e me salva anche la pell. Sculto un be, capitan Slav, la semperti stupidat, gem de la saperto un attim, odio, rabbia, anche spat. Quel che semmo che semmenga, poderà forse più ves, e te giuri in sel menom che sbaglia fin ades. Che mai sta nessun demonio a firma quel tuo contrat, ed la sa che la tragedia te facea venir mat. Ed mazza chi te incontravet per vendica una dona che le stata occupata da una sola persona. O te pensa del bon che hai gente nes, a che venu in mente brusala come niente fudes. Ades me te disi che in tutta sta sulfa ghe un nom che il passeggia con timbras la sua colpa, all'el vescov Tabarius, che il gapog de sant impegulà con tel demoni dai culzeta immudant. Il tafasse come un filin sulla spola, e la sor del lac la sta in pecul la cola, perché el tadupra per purtà in giro il mal, quel mal che sta a cœur al so principal, e parli menga de quel son del ciel. Ma quel gio in di fiam con ti corni col pel. Te disi che ades che la possibilità de met una pezza a tut quel che t'fa. El so che la rabbia le brutta la strazia, ma de cole cacom te se sta una disgrazia. Ma di una persona, e lei certo la sa, che il vescov guarda caso poves battu de te duma. L'è uno strano incastro de magia nera. Fan vedere se ti sei buon di una vendetta vera e potet pagare per quel che come tu. Se de no a questo punto vada via il cu. Se po' me a descriv, cos'è pove pensare che l'om che ormai l'era quasi druga. Vedisi però che la parla coi suo amis, la nomina capitano il suo vice, Butris, e denanza la luna con scialfias del ven, ia saluda, la brindà, e gli lascia il suo destin. Stasera il mio cervello è il par un ragno che solta, e so che vo a crepà o a nas un'altra volta. Vi oltre si pirati, po' di me a cambiaf, però che sarà più nessun capitan Slav.